Lui ha fatto un film che fu pagato da me, naturalmente. E lo trovai qua sotto. L'incontro fu fatale per lei. Soldi, potere, informazione locale, con il giornale Roma tutto nelle sue mani. L'ascesa dell'armatore napoletano sembra inarrestabile. Quindi la volta del calcio. Lauro si impadronisce del Napoli e acquista il celebre Jepson. La città è in estasi. Popolo e tifosi sono con lui. Tutti i primati battuti nella campagna acquisti del 52. Per il centravanti svedese Jepson sono stati spesi 105 milioni. Con lui, con l'ala destra Vitali e con l'ala sinistra Pesaola, Lauro ha voluto formare un attacco atomico. In una partita del Napoli l'entusiasmo che c'era attorno a Achille Lauro era molto di più di quello che c'era nei confronti dei giocatori. Ma al massimo dello splendore, qualcosa nel laurismo comincia a non girare dal verso giusto. Lauro, che a livello locale era in forte competizione con la DC di Silvio Gava, tende ad avvicinarsi ad Alcide De Gasperi. L'intreccio della politica, se da un lato ha rappresentato le fortune dell'armatore, dall'altro ne determinerà anche gli insuccessi. Questa la ricostruzione del giornalista Ghirelli. Ad un certo punto però la Democrazia Cristiana ebbe la sensazione che il fenomeno della destra monarchica, della destra fascista meridionale fosse assorbito. Fosse assorbito, sì, per merito del miracolo italiano, per merito di queste riforme, per merito dell'azione dei partiti popolari e dei sindacati. In questo quadro riformistico finalmente fu possibile annientare il potere politico di Lauro mandandogli semplicemente un'ispezione ministeriale dalla quale risultarono o fecero risultare disordini nell'amministrazione municipale. E così, per questioni amministrative di bilancio, l'allora ministro Tambroni pronuncia in Parlamento l'8 dicembre del 1957 un duro attacco di accusa contro l'amministrazione Lauro. Sembra l'epilogo, per certi versi, di una storia irripetibile. Solo due mesi più tardi, il presidente Gronchi, nonostante il parere contrario del Consiglio di Stato, firmerà lo scioglimento dell'amministrazione comunale. Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 febbraio, il 13 è stato sciolto il Consiglio Comunale di Napoli e nominato nella persona del prefetto dottor Alfredo Correra un commissario straordinario che ha ricevuto le consegne dal sindaco avvocato Nicola Sansnelli. Lauro non cede e tra gli anni 60 e 70 lo vediamo ancora in cella. Non è più sindaco della città, ma siede nell'emiciclo parlamentare. Prima con i monarchici, poi con il Movimento Sociale di Destra Nazionale e così, per dare forza alle sue ragioni politiche, Lauro con Andrea Torino nel 1976 fonda Canale 21, quella che poi pomposamente viene definita dai due editori la prima emittente libera d'Europa. Sono gli anni in cui il figlio Ercole avvia i contatti con Indro Montanelli per la fusione tra Il Giornale e Il Roma. Questa è la testimonianza del figlio Ercole. D'accordo con Montanelli costituiva che si faceva una fusione delle due testate e Montanelli fermava il giornale suo fino a Roma. E da Roma esclusa, ma da Roma in giù andavamo noi col nuovo giornale. Io mi presentai Montanelli e loro erano d'accordo su tutto più o meno, sì, erano d'accordo su tutto. Io felice e contento, all'ultimo momento c'era la questione Almirante. La questione Almirante era che Montanelli diceva che però doveva firmare prima che lui andasse da Almirante. E invece papà diceva no, tu vai prima da Milano, io dopo firmo. Ma l'accordo con Montanelli non andrà a buon fine. Gli anni 80 sono segnati dalle difficoltà imprenditoriali di Lauro. Con la crisi del Roma si apre il periodo più difficile della storia dell'armatore, che culminerà con il fallimento della flotta. Continuiamo subito dopo la viabilità. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento,

nel senso che ho collocato alcune figure, da Mussolini all'incontro col re, in maniera, o anche all'avvocato Agnelli, in maniera romanzata, però sono tutti fatti assolutamente veri e corrispondenti esattamente alla realtà. Ho cercato di fare in modo che la verità fosse una verità storica. All'inizio del romanzo si parla di un manoscritto, questo è vero? Esiste un manoscritto? Sì e no, nel senso che io mi sono rifatto molto a un libricino che era stato fatto in un periodo elettorale, intorno a metà degli anni 50, sì, che si chiama La mia vita, la mia battaglia, che ripercorre un po' la strada di Achille Lauro ed è scritto in prima persona da chi lo aveva scritto? L'aveva scritto proprio il nonno in prima persona, probabilmente con il libro è scritto in prima persona, poi magari avrà avuto degli aiuti sicuramente per la parte politica, e lì ci sono tutta una serie di memorie e io ne ho tratto spunto, quindi diciamo che è vero e non è vero, cioè è stata, ecco, qui ho usato una chiave romanzata per dare inizio al libro. E suo nonno sarebbe stato contento, secondo lei, di questo romanzo su di lui, scritto da lei, proprio dal nipote? Sì, dico di sì, perché ho cercato di esaltarne le sue doti, pur rimanendo estremamente fedele anche ai suoi difetti, perché dal libro traspare anche questa, certo, la sua grande volontà permette di andare avanti. Il suo più grande difetto? Non aver saputo trasmettere agli altri questa sua grandezza, un accentratore puro, e quelli che gli stavano attorno facevano fatica a imparare. Ma cosa le ha insegnato invece suo nonno? Ha insegnato, per la verità mi ha insegnato dopo, non quando era nonno, perché la consapevolezza di avere un nonno per me è arrivata troppo tardi. Quindi attraverso questo lavoro? Attraverso lo studio, sì, del personaggio ho capito veramente che cosa aveva fatto nella vita. E l'insegnamento è quello di non mollare mai, è quello di guardare sempre. Sì, l'abbiamo raccontato, avanti. Visto che riparte sempre da zero, ma con una tenacia incredibile. Sì, coraggio e tenacia, è vero. Achille Eugenio Lauro, nipote di Achille Lauro, ma questa avventura poi è finita. Ecco, secondo lei, dal suo punto di vista, perché? Ma innanzitutto l'azienda viveva una crisi strutturale, organizzativa, aveva bisogno di essere rinnovata e purtroppo proprio questo personaggio che era stato il suo creatore non riusciva a capire i tempi che erano fatalmente cambiati, non ne riusciva a percepire il cambiamento, era ultra novantenne, quindi anche ovviamente quindi questo difficile. Ha influito. Poi c'è stata una crisi dei noli che economica, ha fatto fallire grandi aziende, molti armatori, soprattutto norvegesi, quelli che avevano fatto le grandi petroliere, le grandi superpetroliere, moltissime erano tutte quante in disarmo nei fiordi della Norvegia. E poi, ecco, se vogliamo, sicuramente una mancanza di una guida certa. Cioè? Che proprio per effetto dell'età del nonno e della incapacità di avere un successore chiaro. Il problema degli eredi, insomma. Noi eravamo troppo giovani, la terza generazione era troppo giovane e era venuta un po' meno la fiducia nella generazione di mezzo. Di suo padre, giusto? E di suo zio? No, di mio padre, perché mio papà era morto nel 70 e l'unico figlio era Ercole, che era ancora vivo, ma non attribuirei delle responsabilità specifiche, perché non dimentichiamoci che in quell'epoca, nella fine degli anni 70, inizio anni 80, quando inizia la crisi dell'azienda, si pagava alle banche, il prime rate era oltre il 20%, e quindi c'è stato anche un contributo ben molto forte su questo. E poi ancora vorrei, non per dare una colpa specifica, ma una concausa certamente. Sì. Lauro è stato uno dei padri della destra italiana, diciamo ha versato la Democrazia Cristiana, la potente Democrazia Cristiana negli anni 50 e 60, sì. E secondo me qualcuno non se l'è dimenticato, le sue battaglie non sono state dimenticate, quindi al primo momento utile gli è stato reso il ben servito, diciamo gli è stato dato il ben servito, e quindi perché sono state proprio le banche che erano controllate la Democrazia Cristiana, le prime a colpire l'azienda, e l'azienda aveva una crisi di liquidità, ma era solida, con un patrimonio molto importante e si sarebbe potuta salvare. Achille Eugenio Lauro, nipote di Achille Lauro, è autore di Il Navigatore, edito Mondadori. Un'ultimissima domanda, in giro per Napoli il suo cognome le ha causato più problemi o vantaggi? Ma certo, ogni volta che qualcuno mi chiama per nome e cognome a Napoli si girano tutti, perché è un nome quindi importante, ancora c'è un nome, questa memoria sì, che immediatamente suscita perlomeno curiosità, no, nel vedere chi è che porta quel nome anche a distanza di tanti anni, perché ormai Lauro è morto nel 1982, ma questo mi è capitato anche in altre parti del mondo, dove, a Londra, da Harrods piuttosto che a Monte Carlo, mi è capitato dovunque di suscitare curiosità leggendo magari il mio passaporto, un documento di riconoscimento, persino con la carta di credito, i commessi sapevano chi ero. È una responsabilità, sicuramente è stata una grande responsabilità. Grazie. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it, nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Rachele Bonanni, Gloria Guerrera, Manuel Guerrini, Antonio Miragliotta, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.